Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it. In primo piano. Alle 7:34 minuti, una buona giornata da Laura Bettini. Sentite adesso il frusciare dei fogli, scusate. Arrivo di corsa per vedere insieme a voi le prime pagine dei quotidiani di oggi, ovviamente in gran parte dedicate alla situazione epidemiologica del nostro paese. Cominciamo dal Sole 24 Ore. Covid, paese a rischio, Conte assediato verso una nuova stretta per decreto in ordine sparso, dice poi il Sole 24 Ore. De Luca, il governatore della Campania, sappiamo, propone un lockdown per 30-40 giorni. Fontana, quindi siamo in Lombardia, contrario. Zingaretti preme su Palazzo Chigi, cambio di passo e subito il MES. E di tutto questo abbiamo abbondantemente parlato anche nei nostri GR24, quindi andiamo su altri temi della pagina del Sole 24 Ore. Standard & Poor's conferma il rating, migliora le previsioni. Le misure anticrisi hanno gettato le basi per la ripartenza economica. Ieri in serata Standard & Poor's ha deciso di mantenere invariato a BBB il rating della Repubblica Italiana, migliorando però la prospettiva sul merito di credito a stabile da negativa che era. Lo ha comunicato l'agenzia di rating statunitense, una buona notizia in parte inaspettata, ma spiegabile anche con l'orizzonte meno congiunturale seguito nelle loro analisi dalle agenzie di rating. A motivare la scelta dell'agenzia c'è anche l'azione del governo che con le misure anticrisi hanno contenuto, si legge, i danni dei risultati di bilancio, creando basi per la ripartenza dell'economia. Sulla prima del Sole 24 Ore segnaliamo anche la situazione aeroporti al collasso con fatturato a meno 80% e poi la sentenza della Cassazione sul noleggio yacht, tornano le accise sul rifornimento di carburante. Tornano, e forse anche con effetto retroattivo, le accise sui bunkeraggi, operazioni di rifornimento di carburante per le imbarcazioni a noleggio. Così ha deciso la Cassazione, ricordando che l'esenzione riguarda solo l'imbarcazione che naviga nelle acque comunitarie e se è comprovato l'uso commerciale. C'è poi l'approfondimento sul food, come sempre ogni sabato su Sole 24 Ore. Pasta, nella fase dell'emergenza l'export sale del 30%. Sulle analisi segnalo quella dell'ex ministro Tria nella sua rubrica Bussola e Timone, che oggi si intitola Non c'è bussola e manca il timone. Vi leggo qualche passaggio. Non c'è bussola, non c'è timone, per riprendere il titolo di questa rubrica, e vi spiego perché. La situazione è critica e non solo per ciò che riguarda la ripresa della pandemia, e per uscirne è bene abbandonare le narrative di impronta politica che servono per stare al governo ma non per governare. Serve un bagno di realtà, scrive Tria. Questa ci dice, ad esempio, che il quadro economico finanziario prospettico presentato dalla NADEF, che è la nota di aggiornamento al DEF, come base della legge di bilancio, è il prodotto di un esercizio doveroso ma purtroppo poco utile, perché ormai fortemente obsoleto e non rispecchia i problemi che avremo di fronte. La seconda ondata della pandemia, non solo in Italia, rende ottimistiche le previsioni tendenziali di crescita per l'anno in corso e per l'anno prossimo. D'altronde i modelli previsionali non funzionano in caso di rotture strutturali dei comportamenti. Per il 2020 è incerta la crescita del PIL, ma abbiamo dati ancora non chiari anche su quale sia stata l'effettiva spesa aggiuntiva corrispondente agli oltre 100 miliardi di scostamento di bilancio approvati per finanziare i provvedimenti di emergenza. Questo è giusto l'incipit di Giovanni Tria sul Sole 24 Ore. Andiamo al Corriere della Sera, verso il coprifuoco in tutta Italia. Questo è il titolo a tutta pagina. Spinta da governatori e scienziati per un nuovo lockdown, proteste e scontri in piazza a Napoli. Timori in Lombardia, Fontana però scongiura la serrata. Gli esperti dicono ora ci vogliono interventi drastici e Standard & Poor's il giudizio migliora. Questo riassunto di giornata sul Corriere della Sera, dove vado a segnalarvi anche il caffè di Massimo Gramellini, alcuni passaggi almeno. Perché Vincenzo De Luca ha deciso di mostrare la lastra dei polmoni di un 37enne ricoverato al Cotugno di Napoli con il Covid? Al di là del buon gusto, la prossima volta mostrerà l'attacco di un trauma cranico per scoraggiare gli incidenti stradali? Come mai ha voluto trasformare un caso abbastanza eccezionale in una storia emblematica? Immagino che De Luca lo abbia fatto per spaventare i suoi amministratori e i suoi amministrati più giovani, ritenendo la paura il miglior antidoto contro il diffondersi del contagio. L'idea che i popoli si governino trattandoli come sudditi, anziché sforzandosi di renderli cittadini consapevoli, raccoglie molti estimatori e, pur senza condividerla, non mi permetto di giudicarla. Però De Luca non è un corsivista, né un parroco o uno psicanalista. De Luca è un presidente di regione e il compito istituzionale dei presidenti non consiste nello spaventare i cittadini, ma nel far funzionare gli ospedali, dotandoli dei posti di terapia intensiva che in questi mesi di tregua si sarebbero potuti e dovuti allestire, magari nel tempo dedicato a mostrare lastre e minacciare l'uso di lanciafiamme in TV. Prosegue poi Gramellini, ma per questioni di tempo io sospendo la lettura e vi segnalo nelle pagine interne del Corriere della Sera, pagina 11 per l'esattezza, un'intervista a Giorgio Palù, che è un professore ordinario di microbiologia e virologia all'Università di Padova, anche direttore del Dipartimento di Medicina Molecolare dell'Ateneo Veneto e past president della Società Italiana ed Europea di Virologia, un uomo dei molti titoli. Il titolo invece che viene attribuito a questa intervista dal Corriere della Sera è: il 95% dei positivi è asintomatico, chiudere tutto, no, basta con l'isteria. Piuttosto, suggerisce poi il professore in questa lunga intervista, ci si dovrebbe attivare nel caso in cui si individuino dei cluster, cioè raggruppamenti, come sappiamo ormai, quando cioè il positivo è venuto a stretto contatto con altre persone in un ambiente di lavoro, a scuola o in famiglia, allora si dovrebbero fare tamponi a tutti. Quindi conoscere i dati giornalieri, come da bollettini sui contagi, casi positivi, non è in definitiva utile? Chiede Adriana Bazzi, che lo intervista. Quello che veramente conta è sapere quante persone arrivano in terapia intensiva. È questo numero che dà la reale dimensione della gravità della situazione. In ogni caso, questo virus ha una letalità relativamente bassa, può uccidere, ma non è la peste. A cosa attribuisce l'attuale impennata di casi? Certamente alla riapertura delle scuole. Il problema non è la scuola in sé, ma sono i trasporti pubblici, su cui 8 milioni di studenti hanno cominciato a circolare. Tenere aperte le scuole è però indispensabile, dice Palù. Sullo stesso tema, nella stessa pagina, trovate un intervento di Roberto Battiston, docente a Trento, stato presidente anche dell'Agenzia Spaziale Italiana, che appunto fa risalire indietro nel tempo la causa scatenante di questa seconda ondata alla riapertura delle scuole, ma non tanto, come diceva Palù, a quello che avviene nella scuola stessa, ma nel fatto che milioni di ragazzi hanno iniziato, leggo, a frequentarsi regolarmente negli edifici scolastici, portandosi dietro gli effetti delle loro frequentazioni, lo sport, i trasporti, le attività extrascolastiche, le abitudini sociali. Questo probabilmente ha provocato un formidabile effetto amplificatore che, partendo dai giovani, tocca in ordine di intensità decrescente insegnanti, operatori scolastici, persone che vivono per varie ore ogni giorno in contatto con loro, oltre che ovviamente tutto il resto della società. Nell'occuparci di quello che accade nella scuola, scrive Battiston, ci siamo dimenticati di tutto quello che accade ai giovani fuori dalla scuola e che viene messo in circolo con effetti devastanti. Dal 1 ottobre l'epidemia ha ripreso a salire velocissima, raddoppiando ogni circa 7 giorni e superando il 23 di ottobre 170.000 infetti. Alcuni passaggi di questo intervento di Roberto Battiston, come dicevo, sul Corriere della Sera. A questo punto andiamo al Mattino. Quest'oggi l'ho voluto trovare, visto che appunto le minacce di De Luca sono di lockdown totale, minacce, diciamo così, l'annuncio di De Luca è di lockdown totale. Questo è stato percepito come una minaccia da coloro che ieri sono stati in piazza a Napoli. E non solo, hanno dato vita a questi scontri. L'apertura del Mattino è a tutta pagina il lockdown di De Luca. Il governatore: siamo a un passo dalla tragedia, fermiamoci. Da lunedì la campagna chiusa per 30-40 giorni, ha detto. Pressing delle regioni e degli scienziati, Conte resiste ancora. Il tesoro prepara nuovi aiuti a fondo perduto. Sulla stessa prima leggiamo: divieti e permessi quasi come a marzo, ma cantieri aperti, questo per quel che riguarda la Campania. E nelle pagine interne troviamo anche l'articolo a pagina 7, quindi un po' più in là rispetto all'apertura, Napoli guerriglia durante il coprifuoco. Assedio a Palazzo della Regione Campania, scrive Gennaro Di Biase. Doveva essere soltanto una manifestazione di commercianti per protestare contro il coprifuoco, ma tutto si è trasformato in una vera e propria guerriglia, dove gli esercenti sono diventati solo spettatori. Bombe carte e petardi contro Palazzo Santa Lucia, carabinieri feriti, una troupe di Sky TG24 aggredita. Il primo giorno di coprifuoco è diventata l'occasione per devastare le strade adiacenti via Santa Lucia, con cassetti incendiati, utilizzati anche come barriere per non far giungere sul posto i vigili del fuoco e sedare gli incendi. Erano più di 1000 in strada in quello che è stato probabilmente il più grande assembramento da quando è cominciata la pandemia. Prima che la serata si trasformasse in rivolta nelle strade, c'era anche una foltissima base di lavoratori che si sono organizzati in rete appena nate, su Facebook o in chat di protesta, in cui nelle ore precedenti la rivolta si era già parlato a più riprese di incendi di cassonetti e molotov, rivoluzione, manifestazioni di piazza, di massa, scusate, scrive. Ma se nelle prime ore dell'evento c'erano in strada per lo più lavoratori chiamati in piazza da Confcommercio e Confesercenti, dopo c'era soprattutto una buona parte espressione dei centri sociali e probabilmente della malavita. Il tutto si è tradotto in una bolgia già dalle 22 nel primo assembramento. Mi fermo qui perché c'è la viabilità, ma direi che in questo articolo ci sono già molti, molti elementi sui quali riflettere. Era sul Mattino. A tra poco. In primo piano. E andiamo a questo punto sulle pagine del Fatto Quotidiano. Così le regioni hanno fallito sulla sanità. I numeri inchiesta del Fatto sul collasso del sistema, gli sgovernatori, scrive ancora il Fatto, chiedono il MES ma non hanno speso gli 8 miliardi stanziati dal governo, mancano personale, posti letto, medici di base e tracciatori. Sono due le pagine che il Fatto Quotidiano poi dedica a questo focus. Ecco perché la sanità delle regioni ha fallito, ne scrive Marco Palombi, il dossier, l'assistenza domiciliare scarsa, nuovi infermieri dimenticati, pochi assunti al tracciamento e nel Servizio Sanitario Nazionale piani ospedalieri bloccati, poche terapie intensive in più e senza anestesisti. In particolare poi Jacopo Rocca e Natascia Ronchetti si concentrano sulle situazioni di Milano e di Genova. Ed è sicuramente un invito a leggere questo approfondimento. Voglio segnalare dalle pagine del Messaggero invece un altro taglio che viene preso, che è quello delle reti wifi per la scuola. Sappiamo benissimo che tanti ragazzi della scuola superiore, cosiddetta secondaria, saranno a casa, già molti lo sono in realtà, altri ce ne saranno dalla settimana prossima, però dice il Manifesto in questa inchiesta non c'è la rete wifi, il Messaggero in questa inchiesta non c'è la rete wifi, in una scuola su tre niente lezioni da casa. Vediamo se riusciamo a cogliere qualche passaggio. Tutta colpa della rete e della banda larga, scrive Lorena Loiacono, che in Italia non raggiunge scuole e studenti. Le regioni, alle prese ogni giorno con dati in crescita, stanno decidendo autonomamente come muoversi per contenere il virus. I provvedimenti non risparmiano la scuola, didattica a distanza dunque, ma bisogna fare i conti con la rete, che dovrà servire le scuole in maniera massiccia, visto che le chiusure vanno dalla Lombardia alla Campania, dalla Calabria alla Puglia, che hanno deciso drasticamente di chiudere del tutto le classi superiori, mandando a casa gli studenti studenti a far lezione. A seguire ci sono il Lazio, l'Umbria, il Piemonte, le Marche, la Liguria, la Basilicata, con il 50% dei ragazzi in presenza e il 50% a distanza. Studierà da remoto anche un terzo delle classi della provincia di Bolzano, ma solo nelle scuole italiane. Nelle regioni che non prevedono la chiusura totale delle scuole restano in presenza i ragazzi del primo anno, quelli per i quali la terza media è stata tranciata dalla pandemia, così come l'inizio del percorso delle superiori. Ma la scuola in modalità online rischia di scoppiare e ci sono problemi di dispositivi per gli alunni e problemi appunto per le scuole stesse dalle quali dovrebbero essere fatte le lezioni in via telematica. Andiamo al Foglio. Ne scrive il direttore Cerasa di questo tema: guarire dalla stagione dell'impazienza, ed è una questione centrale. Siamo abituati ad avere tutto subito, ma qui tutto subito non si può avere. L'impazienza, la ragione per cui l'Occidente fatica a controllare il virus, l'ansia di dare alla pandemia una data di scadenza, non ci permette di adattarci a un'epoca che vivremo a lungo. Stanchezza e speranze, saggi a confronto con vista lockdown, scrive Cerasa. Siamo tutti alla ricerca di una verità, di verità consolatoria, di soluzioni incoraggianti, di risposte definitive, di notizie rassicuranti, di notizie capaci di farci leggere il presente con uno spirito diverso da quello della fatica, della paura, del terrore, del panico, della tristezza e ovviamente dell'angoscia. Siamo tutti lì ogni giorno a cercare una qualche certezza sul futuro, una qualche anticipazione sul vaccino, una qualche notizia capace di non farci pensare troppo ai problemi quotidiani. E vado un po' più veloce avanti. La dottrina del semplicismo, l'attribuzione inequivocabile di singole cause e rimedi per fenomeni multifattoriali, prevede la possibilità non solo di poter definire in ogni circostanza una soluzione chiara a qualunque problema complesso, ma anche di poter circoscrivere in ogni situazione il perimetro di ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. La tendenza del semplicismo a incoraggiare la polarizzazione, ha scritto un giovane ricercatore dell'Università di Oxford, Nathaniel Rach, in un saggio dedicato al tema pubblicato sul sito The Persuasion, è altrettanto insidiosa. Se calunni gli oppositori come sabotatori e consideri il dissenso incomprensibile, non si può discutere. A prima vista potrebbe risultare difficile comprendere cosa c'entri la teoria del semplicismo con la stagione pandemica, ma se si ha la pazienza di seguire il ragionamento, si capirà facilmente quanto sia importante fotografare il semplicismo per illuminare le ragioni che si trovano alla base della nostra incapacità di accettare fino in fondo la stagione nella quale siamo immersi. Siamo tutti alla ricerca di verità consolatorie, di soluzioni incoraggianti, di risposte definitive, di notizie rassicuranti per la semplice ragione che ciascuno di noi fatica ad ammettere quello che forse oggi dovremmo iniziare a riconoscere, anche per provare ad affrontare con spirito diverso i mesi che ci attenderanno. Durante una pandemia non esistono risposte semplici a problemi complessi. L'incertezza è un atteggiamento inevitabile da parte anche del decisore pubblico. Il dubbio è tutto tranne che una vergogna per la comunità scientifica. E se c'è un modo per essere disonesti di fronte ai cittadini è quello di affermare verità indimostrabili, è quello di illudere la popolazione, è quello di mostrare eccessiva fiducia rispetto a quello che certamente sarà. E via via poi continua. Ben argomentando come sempre il direttore del Foglio. Andiamo su Repubblica. Quanto tempo abbiamo? Ok, benissimo, 2 minuti. Fuori solo per lavoro e scuola, sempre chi ci va appunto, titola Repubblica, Conte cambia strategia, si prepara a limitare i movimenti in tutta Italia. Battaglia sugli orari del coprifuoco per bar e ristoranti, aumentano i contagi, ieri 19.143. L'Istituto Superiore di Sanità dice la situazione è grave in 8 regioni, superati i livelli di allarme. Questa è la scelta di apertura di Repubblica. Il virus fa paura, Italia verso la zona arancione, così titola invece La Stampa, dove c'è un'intervista a Giorgia Meloni, c'è chi rischia di morire di povertà. L'intervista a Medeo La Mattina. Giorgia Meloni pensa che il governo abbia messo in ginocchio il paese e ora scarica le sue responsabilità su comuni e regioni. Così viene presentata l'intervista. Al centro pagina, missione impossibile a Venezia, i carabinieri fermano Tom Cruise. Le conseguenze della pandemia, come sapete, si gira a Venezia, il nuovo film di Tom Cruise della serie Mission Impossible, però viene fermato il set perché c'è troppo assembramento tra coloro che vogliono seguire le riprese. Ultimi titoli che vi posso leggere: Avvenire, il dilemma lockdown, questo è il titolo, e al centro pagina però una bella inchiesta viene anticipata che segue poi nelle pagine interne, dalla Libia anche la droga, traffici coperti con i clan. E così ci dobbiamo fermare, a questo punto c'è GR24, ci ritroviamo alle 8:30 con Si può fare. Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente ed ha una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it.